Italia in controluce, la politica nel tunnel. Benvenuti a tutti, oggi è il 10 aprile, nuovo inquilino del Quirinale. Si fanno dunque serate le trattative per dare un volto al nuovo inquilino, al nuovo capo dello Stato che dovrà succedere a Giorgio Napolitano. Il compito non è facile. Nell'incontro di ieri Bersani e Berlusconi hanno deciso il metodo da seguire, messo sul tavolo della discussione una serie di nomi in grado di sbrogliare questa matassa dei veti, lacci, lacciuoli, contrapposizioni ideologiche. Tra i candidati, quelli diciamo almeno sul tavolo, spunta il nome di Giuseppe De Rita, ma restano in campo D'Alema, Amato, Marini, Bonino, Grasso. Il Movimento 5 Stelle non ha ancora presentato ufficialmente il suo nome, ma tra i grillini i nomi sono Gino Strada, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebeschi, che ricorrono spesse volte. Così in Italia si ragiona sul nuovo capo dello Stato e così Italia in controluce lancia oggi un mini sondaggio. Sono già arrivate centinaia di sms, ancora la trasmissione non era ancora iniziata. Noi riteremo valide solo quelle che arrivano proprio durante la trasmissione per capire il vostro orientamento, per capire quali sono le preferenze degli ascoltatori della trasmissione. Inviate dunque i vostri sms 349-238-6666. Dicevo, riterremo validi solo gli sms giunti durante questa trasmissione. Già ci sono i nomi di Bonino, di Rodotà, di Rosi Bindi, di Ferdinando Imposimato, che dice Tina da Guidonia, poi i nomi più disparati, perfino Carlo Genta e Deborah Rosciani, che qualcuno vorrebbe al Quirinale. E Nitto Palma, Romano Prodi, Adriana Cancellieri, Letta del PDL, Rosi Bindi, Roberto Benigni. Questi sono i primi nomi che sono arrivati davanti al mio computer. Anche Giulio Sapelli. E c'è chi torna ancora con Mario Monti presidente, chi Antonio Martino, chi Finocchiaro, Zagrebeschi oppure Settis, c'è di tutto, scatenatevi. 349-238-6666, poi attraverso il nostro sito radio24.it nel pomeriggio, tempo naturalmente di contarvi, e daremo anche i dati sul numero degli sms che sono arrivati in questi pochi minuti. Allora, Vincenzo Miglietta, qual è la situazione? Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. La situazione, come anticipavi da studio, è quella che evidenzia comunque un passo in avanti. Dopo l'incontro tra Berlusconi e Bersani è stato stabilito un metodo, ovvero individuare entro il 18 aprile una rosa di nomi che possa andare bene sia al Partito Democratico che al Popolo della Libertà, e poi lasciare all'Aula la decisione, ma comunque per quei nomi lì, ovvero un nome che sia condiviso e, come ha sottolineato più volte il Popolo della Libertà, non sia ostile ad una parte dell'Italia che, comunque va ricordato, ha preso tanti voti, se non quanti quelli del centrosinistra, ma con uno scarto minimo quello uscito dalle urne. Per cui la novità riguarda l'intesa tra Bersani e Berlusconi rispetto al metodo, poi arriverà la scelta della rosa dei nomi. E l'ulteriore novità uscita ieri dall'incontro è che per il momento sembrerebbe messa da parte la corsa per Palazzo Chigi, ovvero è stato deciso di non sovrapporre Quirinale e Palazzo Chigi, perché andando dietro a questa strada qui non si sarebbe arrivati da nessuna parte, per cui fino al 18 aprile si penserà al Quirinale, quando verrà fuori il nome del prossimo Presidente della Repubblica. Di lì in poi si tornerà a parlare del governo. Su questo aspetto qui le posizioni restano nettamente distanti. Per il PD non si può fare il governissimo con Berlusconi. Dal Popolo della Libertà ripetono che invece quella è l'unica strada, a meno che non si voglia tornare al voto. Voto che oggi, Daniele, viene auspicato da Renzi, dichiarazione di poco fa. Renzi dice: qualora Berlusconi e Bersani non dovessero trovare un'intesa, è necessario tornare al voto. Poi ulteriore polemica legata a Renzi, quella della sua mancata presenza come grande elettore della Toscana nella futura elezione del Presidente della Repubblica. Renzi fa capire che forse è arrivato un veto da Roma. Bersani ufficialmente prende posizione e dice: da Roma non abbiamo deciso nulla, in quanto è il Consiglio regionale della Toscana ad individuare i grandi elettori. Insomma, il mondo del centrosinistra, in particolare del PD, è abbastanza in subbuglio e in procinto, ecco, dei prossimi giorni molto importanti per la democrazia. La posizione del Movimento 5 Stelle non è ancora chiara, anche se ho letto, non so se confermi, Miglietta, che Grillo e il Movimento 5 Stelle sarebbe anche disposto a votare per Romano Prodi. È così, Daniele. Il nome di Romano Prodi, per assurdo, sta diventando un cavallo di battaglia, tra virgolette, del Movimento 5 Stelle. È uscito dal tavolo di Bersani e Berlusconi, in quanto è un nome non compatibile secondo il Popolo della Libertà, ed è stato preso come elemento simbolico da parte di Grillo. Prodi, ricordiamo, premier per due volte dell'Ulivo, del centrosinistra, ma non sarebbe un nome che potrebbe andare giù al Popolo della Libertà. Rientra invece nella rosa di nomi di cui avevi parlato tu all'inizio del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, ricordiamo, farà un sondaggio, un referendum online per individuare comunque un nome da proporre poi in aula qui a Montecitorio a partire dal 18 aprile in seduta comune. Bene, allora vi abbiamo chiesto chi deve abitare il Quirinale dopo Giorgio Napolitano. Sono centinaia gli sms, non avevo naturalmente dubbi, e avete fatto e continuate a farlo anche per i prossimi minuti. 349-238-6666. Ancora non ho i dati, diciamo, matematici, ma mi sembra di poter dire che certamente Emma Bonino, tra i nostri ascoltatori, tra gli ascoltatori di Italia in Controluce, è la favorita. Poi abbiamo anche molti Romano Prodi, abbiamo alcuni cancellieri: Boldrini, Amato, Beppe Pisano, Marcello Pera, Mario Monti, due o tre voti per Mario Monti, perfino Paolo Savona, Nitto Palma, Paola Severino, Luciano Violante, Oscar Giannino, Giuseppe Cruciani, Presidente della Repubblica, dice Luca da Roma, cioè veramente di tutto. Ma noi prenderemo diciamo in considerazione solo ed esclusivamente quelli che sono entrati dentro in questo programma, in questa trasmissione. Quindi al momento direi che Emma Bonino è la favorita, ma abbiamo anche qualche nome, ecco, poco fa qualche nome come Franco Marini. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: Ariel da Torino, se fanno D'Alema Presidente della Repubblica, io faccio le valigie e torno a vivere in Ghana. Questo è un nostro ascoltatore. Io vi ricordo che naturalmente ogni giorno noi abbiamo dato spazio, a moltissimo spazio, alla politica, e non è un caso, per cercare di raccontarvi naturalmente quelle che sono le trattative in atto della politica per uscire fuori dal tunnel. Ecco, in questo momento c'è anche il nome di Gustavo Zagrebeschi tra i nostri ascoltatori. E vi ricordo che potete naturalmente raccontare le vostre opinioni sulla pagina di Facebook di Italia in Controluce, abbiamo anche il gruppo Twitter, e riascoltare questo programma sul sito radio24.it. Noi torniamo domani alla stessa ora, puntuali. Un saluto a tutti da Daniele Biacchese.